L'agenda Monti è quella di una agenzia di pompe funebri. Voglio essere chiaro che il rigore sia fondamentale, è fondamentale, l'ho fatto anch'io. Io per tanti anni sono stato indicato da Monti come una persona... L'uomo del rigore. Però l'accusavano successo. Che mancasse la crescita, Esatto, infatti. Allora, primo, dicevo che la crescita non si fa per decreto legge e adesso lo dice Monti come sua giustificazione. Secondo, pensare che la crescita dipende dal governo è una visione infantile e devo dire tragicamente sbagliata, perché la crescita dipende da tanti fattori, dall'ordinamento giuridico, dal sistema sindacale, dal clima complessivo. Detto questo, non mi pare che Monti sia un fenomeno sulla crescita. Monti rimproverava la mancata crescita, siamo a meno 3 di recessione. Ora, nessuno dei provvedimenti che ha fatto ha portato alla crescita, ma tutti alla recessione.